Allora, qua siamo nella cosiddetta centrale operativa del nostro corpo, dove ci sono il bancone con le radio e i computer. Attenzione, chiamata selettiva per il corpo di volano per servizio tecnico a seguito di investimento pedone. Chiamata selettiva per il corpo di volano per servizio tecnico a seguito di investimento pedone. Contattare la centrale 30. Allora, avete sentito delle comunicazioni effettuate con la radio, si sentono le comunicazioni dei vari corpi quando ci sono delle chiamate oppure delle uscite dalle varie caserme. Buongiorno, noi siamo la scuola primaria di Volano, la quinta B, e siamo dei bambini molto curiosi e volevamo chiedervi delle domande. Come è nata la vostra associazione? È nata 151 anni fa. Ma non è che è nata solo da noi, da Volano, è nato tutto l'impero austro-ungarico. E sotto l'impero austro-ungarico hanno dato delle disposizioni che ogni comune deve avere un suo corpo volontario di vigile del fuoco. Circa in 20 anni, in tutto il Trentino, ma anche nel nord Europa, quindi Austria e Germania, e altri stati, in ogni comune è nato un corpo. Quest'anno c'è stata una celebrazione, ce ne potreste parlare? Sì, quest'anno finalmente abbiamo inaugurato la caserma. Nel corso degli anni avete incontrato difficoltà nello svolgere le vostre attività? Difficoltà? Beh, siccome non è che quando facciamo un'uscita su un intervento non siamo mai da soli, minimo di essere in due. In più dopo arrivano anche l'aiuto e quindi a seconda dell'intervento che si fa si ha più bisogno di altre persone che ci aiutano, quindi difficoltà poi ce ne sono perché ogni intervento è diverso dall'altro, quindi quando si esce dalla caserma non si sa mai, si sa che è un incidente, un incendio, acqua, luce, però non si sa cosa si arriva sul posto, quindi difficoltà ci sono più, succede più di una volta, però vediamo sempre di superarle queste difficoltà. Comunque noi siamo sempre collegati via radio con la centrale di Trento, quindi abbiamo l'aiuto poi di Trento e poi in caso abbiamo l'aiuto anche dei corpi dei comuni vicini. Il corpo di vigile del fuoco all'interno di un paese è importante in quanto è un supporto a tutta la popolazione e sia alla popolazione sia all'amministrazione che a volte non ha tutti i mezzi a disposizione per poter far fronte a determinate situazioni.